Capitolo 11. Confidenze. Il signor Dahler ci ha spedito un invito per l'anteprima della sua mostra, annunciò Gertrude mentre sedevano per il tè in salotto un sabato pomeriggio. Oh, lasciami vedere, Gertie, esclamò Phyllis, impossessandosi del pezzetto di carta. Signorine Lorimer e amici, così Connie potrà venire con noi. Constance Devonshire aveva fatto loro un'inaspettata visita quel pomeriggio, dopo un'assenza di diverse settimane. Sembrava terribilmente malata. Il suo abituale incarnato luminoso era mutato in uno strano color cera, il suo viso rotondo deperito e aveva due occhiaie scure sotto gli occhi innaturalmente lucidi. Mi farebbe decisamente piacere andarci, se pensate di potermi portare con voi, disse. Poi aggiunse con un'aria di forzata allegria. Suppongo che sarà quel che i giornali di costume chiamano un avvenimento mondano. Lo stoicismo va osservato, è una virtù crudele. C'era qualcosa di crudele nel filo riserbo di Connie, nel modo in cui risolutamente si rifiutava di riconoscere quello che sarebbe stato lampante per il più disinteressato degli osservatori, cioè che la sua salute e il suo spirito erano seriamente compromessi. Non è una fortuna, disse Lucy, che zio Sebastian ci abbia mandato quell'assegno. Ora potremmo permetterci qualche vestito decente. Ho intenzione di prendere un abito da passeggio di cashmere grigio e anche il mio abito da sera sarà grigio, annunciò Phyllis, che era una delle poche persone a poter indossare quel colore traendone profitto. Fanny, che aveva idee rigide riguardo alle regole del lutto, dichiarò con aria severa che il suo nuovo vestiario sarebbe stato nero. Poi sospirò, come per richiamare l'attenzione sulla sua costanza nel ricordo del defunto, di contro all'indifferenza generale. Gertie, stava pensando al colore rosa, non è così? Chiese Phyllis innocentemente, appena colse il moto di rabbia che Gertrude si era affrettata a reprimere. Se intendi un abito per questa inestimabile anteprima, io non ho intenzione di andarci. Il capo della ditta deve essere presente a un appuntamento del genere per una mera ragione d'affari, osservò Lucy rivolgendo a tutti un amabile sorriso. Proprio così, Gertie, aggiunse Phyllis, sei tu la persona che ispira fiducia sulla qualità del nostro lavoro. Nessuno si aspetterebbe che noi, indicando se stessa alle due sorelle, siamo brave. Verrebbe considerato improbabile che la natura abbia dato in dote tutte le sue qualità alle stesse persone. Sono tanto spaventosa? Domandò Gertrude un po' rammaricata. No, cara, ma con quella faccia non possono esserci dubbi sulle tue capacità. Aspetta qualche anno, disse Connie, e di tutte voi sarà quella che avrà l'aspetto migliore. Aspetteremo fino a che avrà 80 anni all'ombra, citò Phyllis, ma a pensarci, certo che siamo una famiglia decisamente ben dotata. Non solo il nostro ingegno ha fascino, il che è a paragone di altri un caso comune, ma le nostre bellezze sono così straordinariamente intelligenti. Non è vero, Lucy? Constance Devonshire aveva ragione. L'anteprima di Sidney Darrell alle Gallerie Berkeley, che si teneva l'ultimo giorno di aprile, era proprio un'occasione delle più mondane. C'erano duchesse, belle donne, uomini di stato e ingegni di ogni sorta in abbondanza. Al centro di tutto, Darrell stesso splendeva come un brillante. A suo agio, raffinato salottiero, elargiva la giusta dose di cordialità nei suoi vari saluti a seconda dei meriti della persona accolta. Non ho mai visto nessuno possedere con così assoluta perfezione l'arte di imprimere la propria grandezza sulle altre persone, bisbigliò Connie a Gertrude, mentre le due ragazze vagabondavano insieme in una delle due sale più piccole. Lui si era stata condotta via da Frank e da uno dei suoi amici. Quella ragazza non restava mai a lungo in nessuna adunanza mista senza attirare al suo fianco persone dell'altro sesso. Quanto a Phyllis, radiosa del nuovo abito grigio, le cui tonalità tenui erano bilanciate da un mazzolino di velette di Parma alla gola, stava facendo una ricognizione dei quadri, scortata niente meno che da Lord Watergate, il quale era venuto incontro alle Lorimer al momento del loro ingresso. E Fanny, tolti mantello e cappellino, spettegolava rumorosamente con il signor Oakley, consapevole per la sua felicità di trovarsi per una volta nella migliore società. Che cosa triste la folla di Londra, si lagnava Connie, che non era abituata nel suo giro di amici a essere lasciata senza cavaliere. Oh, ma questa è divertente, così diversa dalle feste a cui si va di solito, disse Gertrude sorridendo, mentre Lord Watergate e sua sorella si avvicinavano per dirigere la loro attenzione verso una particolare tela nell'altra sala. Quando insieme presero a girovagare lentamente nei pressi dell'entrata, Darrell si fece avanti con un giovane a seguito. Una specie di Don Giovanni che presentò a Phyllis come Lord Malpaquet. Lord Malpaquet sta morendo dalla voglia di sentire le vostre teorie sulla vita, disse scherzosamente, dedicandole un sorriso raggiante ed esclusivo. Signor Darrell, non dovreste divertirvi a mie spese, rispose allegramente, tuffandosi nella calca sotto l'ala del nuovo cavaliere, che la stava fissando con l'ammirazione languida eppure evidente della sua categoria. Eppure, quest'opera rappresenta la realtà alla perfezione, disse Lord Watergate a Gertrude quando si fermarono davanti alla tela che erano venuti a cercare. Sì, disse Gertrude con meccanica condiscendenza. Stava pensando. Che animo meschino deve avere. Tutti sembrano apprezzare e ammirare questo Sidney Darrell e io sospetto ogni cosa di lui, persino la sua arte. Sarà a causa di un pregiudizio, di un'insulsa vanità ferita, forse. Quel sì non tintinnava come un soldo vero, signorina Lorimer. Dubito che siano il luogo e il momento adatto per fare critiche, Lord Watergate, rise Gertrude. Per critiche ostili, intendete? Siete una persona terribilmente difficile da compiacere, non è vero? Come la sala cominciò a svuotarsi, Darrell prese da parte Frank e, lanciando un'occhiata in direzione delle sorelle che si erano riunite, disse: Voi conoscete quelle ragazze intimamente, suppongo? Sì, con molta prontezza. Mi chiedo se la bella Phyllis sposerebbe per me. È probabile che ne sarebbe immensamente onorata. Bene, sentite, il progetto è questo. Voglio che posi per me come Cressida. Un tipo di soggetto alquanto discutibile, non trovate? Disse Frank, colto dal dubbio. Poi aggiunse con interesse professionale: Non sapevo che avevate per le mani un quadro simile, signor Darrell. L'idea mi è venuta proprio questo pomeriggio. È stata la visione dell'incantevole Phyllis, infatti, che me l'ha suggerita. Dove immaginate la scena? Nel frutteto o nell'accampamento greco? In nessuno dei due. Non si può domandare a una signora di posare per un quadro simile. No, e Cressida, prima della sua caduta, che voglio, mentre sta in piedi all'angolo della strada con Pandaro in attesa che passino gli eroi troiani, capite? Per metà sprezzante, per l'altra malinconica, con il bagliore di quella piccola tendra per Troilo, appena all'inizio che le albeggia negli occhi. Sarebbe perfetta per questo. Avete intenzione di proporglielo? Disse Frank, il cui sguardo dimostrava quanto non gradisse l'idea. Le chiederò di posare per me in qualsiasi caso. Prima devo aggirare il drago, però. La sorella. Davvero vi sbagliate sulla signorina Lorimer. Darrell accennò una risata. Vi prego di perdonarmi, caro ragazzo mio. Frank si accigliò e Darrell raggiunse le Lorimer. Presentò la sua richiesta. Phyllis sembrava contenta e Gertrude, reprimendo i segni della propria segreta disapprovazione a quel progetto, disse con calma: Phyllis dovrà consultare nostra sorella Fanny per questa vostra richiesta. Tutto dipende se lei avrà tempo di accompagnarla al vostro studio. Lo guardava dritto in faccia mentre parlava e incontrava, quasi in un'aperta sfida, i languidi occhi grigi dell'uomo che aveva di fronte. Percepiva che da questi l'ironia era svanita. Non vi leggeva nulla, eccetto una fredda avversione. Era una vecchia, vecchia storia, la feroce e pur tacita ostilità fra queste due persone. Un'inevitabile antipatia, una lotta fra genere e genere, fra classe e classe, piuttosto che fra individui. La lotta fra la donna, che domanda rispetto, e l'uomo, che si rifiuta di concederlo. Phyllis si bavoneggiava nel suo pomeriggio di successo, in particolare per i complimenti ricevuti dal gran Sidney Darrell, e Fanny si illuminava la prospettiva di quello che vagamente somigliava a un'occupazione, ovvero l'accompagnare la sorella allo studio dell'artista. Solo Connie era silenziosa e demoralizzata, e quando raggiunsero Baker Street seguì Gertrude nella sua stanza. Qui si buttò sul letto, incurante del nuovo cappellino di velo nero e dei narcisi che lo decoravano. Gertie, il mondo è una bestia, io lo odio. Tu non stai bene, Connie. Se solo volessi ammetterlo e consultare un medico. Gertie, vieni qui. Gertrude passò a sedersi sul letto intimamente allarmata. Qualcosa nel tono dell'amica l'aveva spaventata. Connie affondò la faccia fra i cuscini, poi disse con voce soffocata: Non posso sopportarlo più a lungo. Devo dirlo a qualcuno. Oh, questo pensiero mi ucciderà. Gertrude impallidì, istintivamente sentiva quello che stava per accadere, istintivamente desiderava respingerlo. Non lo indovini? Oh, puoi dire che è umiliante, indegno, lo so. Avevi improvvisamente sollevato il viso. Oh, Gertie, cosa posso farci? Lui è così diverso da tutti quanti. Dai mascalzoni vanno solo a caccia del denaro di una ragazza, da tutte le cattive imitazioni di giovani eleganti che umiliano, mortificano, deridono noi tutte. Cosa posso farci? Frank, Connie, non devi parlarmi così. Gertrude prese l'amica fra le braccia come per proteggere il suo viso. Disapprovava sempre parlare di simili confidenze, considerandole spiacevoli per chi le faceva e per chi le riceveva. Ma questa particolare confidenza la sentiva semplicemente intollerabile. Gerti, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Nulla, davvero nulla, Connie, cara vecchia amica mia. Non mi hai detto nulla. Ci fu una pausa. Poi Connie disse tra i singhiozzi che alla fine erano esplosi: come posso sopportare la mia vita? Come posso sopportarla? Gertrude era pallida. Noi tutte abbiamo i nostri fardelli da portare, Connie. Spesso questo tipo di fardelli, noi donne. Non penso di poterlo fare. Sì, ci riuscirai. Hai un coraggio sconfinato e un giorno potrei essere veramente felice. Mai, Gertie. Noi ragazze benestanti finiamo sempre con dei mascalzoni. Nessun uomo onesto ci avvicina. Ci sono altre cose a parte questa che fanno la felicità, cose belle che ci aspettano. Quale genere di cose? Gertrude si fermò un minuto, poi disse con ardore: la nostra dignità e l'integrità delle persone di cui ci prendiamo cura. Suona bellissimo, rispose Connie senza entusiasmo, ma vorrei lo stesso un po' della felicità più ovvia. Gertrude fece un sorriso, che era allo stesso tempo un sospiro. Anch'io, Connie, anch'io. Capitolo 12. Gertrude è in ansia. Quando Frank in seguito vide Sidney Darrell, quest'ultimo gli rivelò che aveva abbandonato l'idea di Cressida e stava dipingendo Phyllis Lorimer proprio nei suoi panni. Abito grigio, violette di Parma, sfondo grigio violaceo. Lasceremo che lo prenda Sir Coates, penso, aggiunse, risalterà meglio in casa sua che in mezzo al profanus vulgus di Burlington House. Il signor Darrell non dipinge spesso ritratti, non è così? Domandò Lucy quando Jermyn trattò la questione una sera in Baker Street. Non troppo spesso, ma i pochi che ha realizzato sono tra le sue opere più raffinate. Quello della povera Lady Watergate, ad esempio, è un Carolus Duran al suo miglior livello. Ad ogni modo, che amicizia insolita mi è sempre sembrata quella tra Lord Watergate e il signor Darrell, disse Lucy. Oh! Non so se il loro rapporto ha molto dell'amicizia, rispose Frank. Lord Watergate fa un salto su ai sicamore sovente, aggiunse Phyllis, servendosi da un elegante bonbonnière di Charbonnel e Walker, perché Sidney aveva trovato indirettamente molti mezzi per ripagare la sua graziosa modella. Penso sia un così bravo vecchietto. Vecchietto, esclamò Fanny. Non è del tutto vecchio, ho fatto attenzione all'almanacco nobiliare del signor Darrell. Ha 37 anni e il suo nome è Ralph. Io amo il mio amore con la lettera R. L'hai pronunciato proprio in quel modo, Fan? Rise Phyllis. Sì, è una bizzarra amicizia se uno ci pensa. È nobile, gentile, semplice Lord Watergate e il suo complicato amico Sidney. Il signor Darrell è un perfetto gentiluomo, si intromise Fan con dignità. Le mattinate occasionali ai sicamore soffrivano una piacevole interruzione alla monotonia della sua esistenza. Darrell la trattava con una cortesia premurosa e ironica che la ragazza accoglieva con tutta la sua buona fede. Fan, come loro la chiamano, è una sciocca, ma non è questo il peggio, era stato il suo breve riassunto della povera signora, la quale invece lui piaceva più del contrario. Era la fine di maggio e le ore di posa erano proseguite per tutto il mese in maniera concitata e regolare. Entrambe le ragazze si divertivano. Darrell trattava Phyllis come faceva il resto del mondo, come una bambina viziata. Le regalava dolci e fiere bizzeffe e doni ancora più graditi, biglietti per concerti, gallerie, teatri, dei quali anche le sue sorelle beneficiavano. A Gertrude, in fondo al cuore, non piaceva nel complesso questo modo di fare, ma consapevole di non avere obiezioni ragionevoli da presentare, manteneva saggiamente il silenzio, dicendo a se stessa che se non era uno a far girare la testa alla sorellina, l'avrebbe fatto di sicuro un altro, e forse prima si fosse abituata a questo corso di cose meglio sarebbe stato. Perché non viene a vedere il mio ritratto? L'aveva supplicata Phyllis. Andrò il prossimo sabato, così non avrei scuse. Lo vedrò quando è finito, aveva risposto Gertrude. Oh, ma puoi già farti un'idea di come sarà. È un grande dipinto ad altezza naturale, termina quasi alle ginocchia. Io sto in piedi e guardo oltre la spalla. Così. Suppongo che il signor Darrell abbia scoperto come la mia testa si volti tanto piacevolmente sul collo. Gertrude aveva riso e aveva persino tentato un gioco di parole nella sua replica, ma non accompagnò la sorellina ai sicamores. Infatti, ragioni più sottili a parte, aveva poco tempo per concedersi inutili gite. L'attività, come succede negli affari, aveva preso a girare per il meglio e i due membri della società avevano le mani piene zeppe di lavoro. Sullo studio fotografico si erano diffuse diverse voci e in varie fette di pubblico si stava destando un certo interesse nei loro confronti. Persone che avevano teorie sul lavoro svolto dalle donne, persone i cui amici avevano altre teorie, gente curiosa e amante delle novità, singoli individui di ognuna di queste sezioni iniziarono a recarsi in Upper Baker Street. Gertrude, come sappiamo, aveva rifiutato nella fase iniziale della loro carriera un'intervista per il Waterloo Place Gazette, ma in seguito qualcuno scrisse, senza autorizzazione, un breve articolo sullo studio Lorimer per un giornale di costume. E se il gusto poteva esserne messo in discussione, i risultati certamente no. In ogni caso, in certi ambienti circolava la voce che tutte le sorelle fossero estremamente belle e che Sydney Darrell le stesse dipingendo in gruppo per l'Accademia dell'anno successivo. Una notizia certamente da non sottovalutare da un punto di vista commerciale. Cose come queste non contribuivano naturalmente a formare una solida base per il successo, ma in un mondo molto affollato erano portate a costituirne i più comuni varchi d'accesso. Al giorno d'oggi, che ispira alla gloria e propenso a sopravvalutarle, dimenticando che dopo tutto qualcosa si deve pur fare perché un'impresa regga la prova di così tanta pubblicità. Le Lorimer sapevano poco del mondo e delle attività di quel complicato meccanismo necessario per andare avanti al suo interno e mentre la sorte le favoriva con la pubblicità gratuita, dedicarono le loro energie a mantenere la qualità del lavoro più alta possibile. La vita invece stava aprendo loro più di una strada. La professione che avevano intrapreso le aveva portate a entrare in contatto con uomini di ogni genere e condizione, a stare tra loro, persone per molti aspetti più congeniali alle ragazze dell'intera massa dei vecchi conoscenti. Essendo divenuti rapporti con questi ultimi, nella maggior parte dei casi di vicinanza più che di affinità, iniziarono ad avere scorci di un mondo più vario e interessante del loro, il mondo della colta borghesia di Londra, che si accostava probabilmente più di qualunque altro a quella società ideale di individui scelti di Gertrude. Ed era Gertrude, più di tutte loro, ad apprezzare il nuovo stato di cose. Stava iniziando per la prima volta a scoprire la sua posizione, ad assaggiare le dolcezze di un lavoro genuino e di un genuino rapporto sociale. Difficile e sensibile com'era, aveva ancora una grande riserva di gioia di vivere dentro, di quella gioia impersonale oggettiva che è così spesso negata al suo sesso. Alleviata dalle ansie pressanti che avevano accompagnato l'inizio della loro impresa, l'elasticità naturale del suo animo si consolidò. Una comune atmosfera di speranza e allegria pervadeva la piccola casa in Upper Baker Street. La sera di cui vi racconto era una di fine maggio e Frank era venuto a dir loro addio prima di prepararsi a partire la mattina dopo per una breve vacanza in Cornovaglia. I vecchi, come chiamava i genitori, erano diventati ormai intolleranti per l'assenza prolungata dell'unico figlio. Il paese apparirà nella sua forma svagliante, esclamò Frank, che amava la sua bella casa. Il mare una distesa di zaffiro con le meravigliose albe che gli ruotano intorno. Intendo fare una bella nuotata per prima cosa. Nessuno può sapere com'è il mare finché non è stato in Cornovaglia. E St. Columb, vorrei che poteste vedere St. Columb, perché l'intero posto è più piccolo di Baker Street. La stradina grigia e desolata, col vento di sud-ovest che vi soffia sopra in ogni momento e in ogni stagione, e non ci sono due case che si somigliano. E poi la chiesetta grigia sulla collina ventosa. E al di là di quella, il vasto giardino verde della canonica, e la canonica, e i cari vecchi che guardano fuori dal cancello. Si alzò con riluttanza per andare. Spero che un giorno la possiate vedere con i vostri occhi, tutte voi. Con quella dichiarazione distaccata, pronunciata con una frase che invece ne smentiva il carattere distaccato, Frank lasciò la mano di Lucy che aveva tenuto con una fermezza non necessaria e si allontanò brutalmente dalla stanza. Gertrude guardò con una certa preoccupazione la sorella, che era tranquillamente seduta a cucire, con un sorriso appena accennato sulle labbra. Fino a che punto, si domandava, erano arrivate le cose fra Lucy e Frank? Era la felicità di uno o di entrambi a essere irrevocabilmente impegnata nel perturbante gioco a cui stavano giocando? Il cielo non voglia che la sua apprensione di sorella la porti a mettere in discussione l'intenzione di ogni uomo che le avvicina, un'orribile pratica femminile disgustosa per la sua anima. Eppure la loro posizione, Gertrude lo sentiva, era particolare e non poteva evitare di considerare i pericoli inseparabili dalla libertà di cui godevano. Pericoli che erano il prezzo da pagare per la stretta intimità che si era stabilita tra giovani uomini e quelle giovani donne. Dopotutto, cosa sono le donne di un uomo, persino quando gli abitano di fronte? E gli uomini, i migliori di loro, non si concedono un'enorme licenza nel fatto di amare e poi di andarsene? Quanto a Frank, lui non aveva mai fatto minimamente finta che le Lorimer godessero dell'esclusiva della sua considerazione. Parlava liberamente del fascino di Nelly e Carrie ed Emily. C'era una certa Ethel di South Kensington, le cui lodi non si stancava mai di tessere. Peraltro, non potevano esserci dubbi che in più di un'occasione avesse manifestato una buona dose di interesse per Constance Devonshire, ballando con lei per metà serata, come Fred aveva riferito. Ma una reciproca sintonia nei passi di valzer difficilmente bastava a giustificare le sue attenzioni. E persino supponendo che una componente più seria fosse sopraggiunta nella sua considerazione per Lucy, lui non era forse povero come loro e non era dunque quell'ultima eventualità che una sorella giudiziosa potesse desiderare. «Che vecchiaccia calcolatrice sto diventando», pensò Gertrude, quindi osservando il tranquillo e laborioso oggetto delle sue paure, rise di se stessa con un po' di vergogna. Il giorno dopo il signor Russell venne a far loro visita e iniziò un attento esame dei loro conti, mise a confronto gli affari dell'ultimo trimestre con il primo, elogiò la migliorata qualità del loro lavoro e si raccomandò fermamente, se era possibile, di reggere per un altro anno. Questo erano in grado di farlo, per quanto certamente il denaro investito nell'attività non aveva restituito nulla se non un alto tasso di interesse, avevano fatto economia in maniera così rigorosa che era rimasto abbastanza dei loro capitali iniziali per portare avanti la battaglia per i prossimi 12 mesi. Dopodiché, se gli affari fossero proseguiti al tasso di ora, si sarebbero potute considerare definitivamente affermate nel mondo del commercio. Prima di andare, il signor Russell disse qualcosa a Lucy, che la sconvolse in modo notevole, anche se la fece sorridere. Era stato vedovo per molti anni e aveva vissuto con la madre, ma l'anziana era morta nel corso dell'anno, così ora proponeva a Lucy, con molta semplicità, di ritornare da padrone nella casa in cui un tempo era stata accolta come gradita ospite. La ragazza ebbe difficoltà a esprimere a parole il suo rifiuto. Questo amico gentile aveva finora dato ogni cosa senza chiedere mai niente. Ma c'era un'anima delicata sotto la rude parte esteriore ed egli intuì immediatamente come stavano le cose e fece del suo meglio per mettere in salvo il dispiacere della ragazza. «In realtà non importa, sapete? Per favore, non datevi altri pensieri», aveva commentato in un modo disinvolto che l'aveva rallegrata e al contempo toccata. Lucy fu abbastanza magnanima da tenersi questo piccolo episodio per sé, anche se Gertrude sospettò quello che era accaduto.